Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, un appuntamento con le nostre voci in scena, i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un supergruppo italiano. Spezzami le ossa, non darmi tenerezza, l'amore non mi basta di più, di più, di più. E guardami negli occhi, ti sembro sempre quella che vuole ad ogni costo la felicità. Non sento più le lacrime, scendo. Parliamo con un gruppo musicale, un supergruppo, cioè fatto da grandi musicisti che hanno messo insieme la loro arte per un progetto. Nada, Ferruccio Spinetti e Fausto Mesolella. 20 anni fa il disco Nada Trio, poi tanti, tanti concerti. Nel 2017 un secondo album, La Posa, il progetto di un tour, poi l'improvvisa scomparsa di Fausto Mesolella pochi giorni prima dell'uscita del disco, che ora resta un documento prezioso. Le nostre voci in scena di oggi sono quelle di Ferruccio Spinetti e di Nada per il Nada Trio. È un trio che parte dal 94, quando ci siamo conosciuti e abbiamo deciso di suonare insieme. Era iniziata così un po'... così per fare qualcosa che ci piaceva a noi, sai, quando ci si incontra tra musicisti e anche a livello umano nasce qualcosa, è bello suonare perché c'è qualcosa che ci arricchisce, che è prezioso e non sempre accade. E quindi non pensavamo però di poi che ci fosse tutta questa strada che abbiamo fatto, e all'inizio abbiamo, per qualche anno abbiamo suonato in trio Ferruccio e Fausto Mesolella. Poi, insomma, Ferruccio ha fatto la sua strada, i suoi percorsi, che poi adesso lui dirà, e eravamo rimasti io e Fausto, abbiamo detto, beh, noi continuiamo, e abbiamo continuato io e lui, abbiamo fatto tantissimi concerti. Non so quanti in questo periodo, ho cercato di ricordarmi, ma credo 8, 6, 7, 800 dappertutto. È stato veramente 25 anni di vita e anche e di musica fantastici. Era un progetto che così diverso, non dipendeva da niente e da nessuno, non doveva rendere conto a nessuna casa discografica, nessuni appuntamenti precisi. No, noi facevamo quello che ci piaceva, che ci veniva, andavamo in giro e trovavamo sempre persone che ci seguivano sempre di più in questi anni. Riempivamo i teatri, qualsiasi parte. È stato bellissimo, però noi speravamo sempre, poi Ferruccio deve tornare, anche perché Ferruccio eravamo c'ha da fare, sempre, però torna, no, forse. Eravamo sempre in contatto, perché a livello, insomma, di amicizia, di interesse per quello che faceva, perché insomma siamo andati insieme come gruppo Nada Trio, e allora finalmente avevamo deciso dopo tanto tempo di rimetterci insieme, e l'abbiamo deciso, questa volta ce l'abbiamo fatta e abbiamo registrato questo disco, e poi è andata come è andata. Io comunque ho un ricordo meraviglioso di questo lavoro fatto pochi mesi, 2 mesi fa, insomma, in studio, un entusiasmo, una voglia di ritrovarci, insomma, di suonare insieme, perché noi avevamo proprio un modo che poi adesso Ferruccio vi spiegherà meglio, proprio che noi ci guardavamo, ci ascoltavamo e andavamo. Era una cosa veramente che noi per primi rimanevamo un po' sorpresi. Dobbiamo dirlo, insomma, Fausto Mesolella poche settimane fa ha continuato a fare musica da un'altra parte, e quindi è un trio ormai con una formazione un po' speciale. Sì, ecco. Questo trio finisce qua, non esisterà più, ma comunque questo disco, dopo lo shock, abbiamo pensato che comunque la musica è l'ultima cosa che Fausto ha registrato. E la musica va avanti, il suo lavoro, il suo suono, la sua meravigliosa chitarra, e noi a questo punto abbiamo il compito di far ascoltare questa cosa, e noi faremo altre cose. Ferruccio, ma cosa, cosa avevi da fare? Cioè, sei sparito? Ma come? Lui ha fatto cose belle. Con Fausto ovviamente condivideva anche il progetto con gli Avion Travel dal 90, quindi eravamo sempre in contatto, ma ovviamente anche con Nada. E poi il progetto che mi ha tenuto via tanto tempo, ovviamente Musica Nuda, il duo con Petra Magoni, che in qualche modo è figlio di questo trio, me lo dico con molto candore e tranquillità, perché quando ho iniziato a suonare con Nada e con Fausto nel 94 avevo esattamente 24 anni. È come se avessi fatto un po' il militare. Sì, infatti noi ti tenevamo, insomma, noi sei piccolo tu, bravissimo, prometteva, era già grande allora, ma lo dico veramente perché lo penso, e con Fausto in macchina nei viaggi, diciamo, ma Ferruccio sta diventando sempre, si può dire che sempre ancora di più, veramente il suo suono, e poi insieme a quello di Fausto, per me, a me mi hanno dato veramente tanto e sono grata, ho imparato tante cose, ho capito tante cose, una cosa che insomma porterò sempre. E sì, e quindi in qualche modo appunto il Nada Trio è diventato quello che poi ho prosciugato con Petra Magoni, perché tante volte quando arrangiavo e arrangio ancora adesso i brani con Petra, per me Fausto, il suo modo di suonare è un punto di riferimento totale, insomma. Amore caro, amore mio, mi tieni come un fiore dentro un vaso alla finestra per farmi rinfrescare, e con cura mi hai distesa e ho trovato la mia posa rigirando ogni cosa dalla parte più preziosa. Da qui si vede il cielo e un'astronave rosa disegna una storia che viene da domani, e ogni cosa si trasforma in milioni di farfalle che mi girano nella testa tra i pensieri e le risate, e la tristezza se ne va, e la tristezza passerà, e la tristezza lascerà il posto alla felicità. La tristezza se ne va, e la tristezza passerà, e la tristezza lascerà il posto alla felicità. È bello. Parliamo della posa, perché è un disco con tante cose belle, perché ci sono tuoi brani, Nada, che hanno ritrovato una vita nuova. C'è Piero Ciampi, basta dire Piero Ciampi, c'è Gian Maria Testa, anche qui basta dire Gian Maria Testa, e poi delle cose così, delle sorprese, delle chicche. Come avete scelto quella che quelli che ne sanno chiamano la tracklist? Ma abbiamo cercato un po' di ricalcare il primo e l'unico disco del Nada Trio, che rileggeva un po' in questa formazione le mie canzoni più conosciute, che sono Amore Disperato, Ma Che Freddo Fa, insomma di quella prima mio inizio, e poi anche perché fino allora diciamo le cose più conosciute erano quelle. E poi avevamo messo alcune, visto che appunto la formazione c'erano due musicisti grandi, per cui dovevamo fare anche, per me era una scommessa, fare anche cose diverse, insomma fare musica, ecco, al di là di quello che è quello che fai tu. Poi in questo disco, e quindi lì c'erano solo una rossa, un pezzo napoletano che insomma mi divertiva, io avevo cantato e Fausto ha detto ma sì, lo vuoi, dico, ma la mia pronuncia, ma no, va bene insomma tutte. E poi in questo disco abbiamo preso le mie, insomma io ho proposto a loro le mie canzoni, queste diciamo, come si può dire, le ultime, che sono poi anche tanti anni che scrivo io, che sono proprio le mie storie, la mia musica, e poi anche qui cercando di andare a ripescare delle cose che in qualche maniera io in questi anni sono entrate a far parte un po' del mio lavoro, che ho incontrato facendo, non so, collaborazioni o partecipando, tipo non so come è successo con Malachianta, questo pezzo salentino bellissimo che io ho cantato l'anno scorso scorso a, appunto nella notte della Taranta, poi un pezzo di Marlene Dietrich, Ciampi, vabbè, non poteva mancare perché Ciampi fa parte un po', beh, una bandiera di me del, io ho avuto una storia importante con Ciampi a livello di musica naturalmente, e poi Gian Maria Testa perché ci piaceva a tutti e tre, era un amico, lo conoscevamo, e questa canzone poi io ero molto legata perché è veramente una poesia molto delicata però profonda, che quando dici le cose importanti, grandi ma con parole semplici, con immagini leggere, sono le cose che ti entrano dentro, e sono veramente, per me che appunto cantarla è sempre un'emozione, e quindi abbiamo un po' ripercorreva, ricalcava un po' il primo album, e poi abbiamo deciso di fare anche un pezzo nuovo, e questa era la novità, un pezzo inedito in tre che non avevamo mai fatto, e io mi sono concentrata e per la prima volta sono riuscita a scrivere una canzone pensando a un progetto che era il nostro, Nada Trio, e è uscita questa canzone che sia Ferruccio, no, che Fausto è piaciuta molto, e aveva proprio anche un ritmo proprio giusto per noi, evidentemente negli anni ho assimilato bene, quindi è venuto che era perfetta. Poi anche questa è una canzone molto semplice, all'apparenza leggera, ma anche qui c'è un testo, insomma, un po' una leggerezza pensosa, per citare, non è una mia frase, ma insomma chi dice le cose in maniera splendida, e quindi poi tant'è vero che poi tutti hanno deciso di chiamare il disco così, quando siamo arrivati a dare il titolo all'album ho detto a tutti, no, chiamiamolo La Posa, è bello, La Posa, e così è rimasto. Adesso vi devo fare una domanda delicata: cosa succederà? Come porterete in giro quest'album? Che cosa? Perché adesso tocca prendere il volo e farlo sentire. Sì, come dicevo prima, abbiamo questo compito che è meraviglioso, al di là dello shock della cosa improvvisa, insomma, adesso abbiamo questo bellissimo compito e dovere nei confronti della musica, di quello che ha lasciato Fausto, e chiaramente, come ho detto prima, Fausto è insostituibile, il Nada Trio non potrà più esistere. E ora non pensiamo al futuro, in questo momento non è ancora il tempo, ma il tempo lavorerà perché tutto prenda una sua strada, e quando arriverà il momento penseremo a cosa fare. Sì, comunque la voglia di, in qualche modo, fra un po' di tempo, di far riscoprire queste canzoni, magari sotto un'altra veste di arrangiamento ovviamente, potrebbe venire anche il Santana con noi domani, sì, ma non sarebbe Nada Trio, perché noi abbiamo questa malattia della musica, capisci? Che poi alla fine è quella che ci chiama e che dobbiamo rispondere, ma arriverà il momento giusto e troveremo una strada sicuramente. Non ho dubbi. Io nel frattempo, lo dico anche agli ascoltatori, ho praticamente distrutto la confezione dell'album, da tanto l'ho ascoltato, l'ho scollato, adesso vado a prendere della colla e lo rimetto insieme perché così lo tratto un po' meglio. Nada Trio, La Posa, veramente un disco con una storia importante, ma al di là della storia importante è proprio bello il disco, ragazzi, complimenti, proprio, proprio una cosa bella da ascoltare. Grazie a Ferruccio Spinetti, grazie a Nada. Ciao. Ciao. Ed è tutto per questo appuntamento con Voci in Scena. Con noi c'erano Ferruccio Spinetti e Nada. Ancora un saluto da Marta Cagnola.